Vombat. E buonasera e benvenuti su Fuoco alle Volpi. E buonasera. Eccoci. Alla puntata numero 63. Puntata numero 63. 63 come il 63 gruppo come... 63. Non... Gruppo 63 era quel gruppo che suonava nel 63. Esatto, chiedevano dei budget, dei cachet enormi, che ogni volta c'era da spendere. Alla fine non li invitava mai nessuno e li conosciamo solo noi. E infatti ve li presenteremo nella prossima puntata. Forse nella prossima puntata. Benvenute, benvenuti. Eccoci qua, nonostante tutti i problemi tecnici. Sì, allora, sono sicuramente a una buona causa il fatto che questo weekend siamo stati a Mondeggi e quindi abbiamo trasportato tutta la regia di Radio Wombat a Mondeggi Bene Comune, l'occupazione contadina. Già c'eravamo stati, cos'era, novembre scorso. E questa volta era la tre giorni di nazionale di Genuino Clandestino. Ne parleremo un po' più tardi. Abbiamo qualche contributo. Abbiamo comunque sul sito le registrazioni delle giornate, del corteo che si è svolto sabato per le vie della città. E quindi, insomma, ci perdonerete il disguido e il ritardo. Vero, verissimo. Secondo me potremmo fare un piccolo vademecum agli ascoltatori di Fuoco alle Polveri, nel senso che quando siamo in ritardo di 10 minuti e un quarto d'ora, allora state tranquilli, è tutto ok. Vuol dire che sarà una puntata quando si supera i 15 minuti, vuol dire che i problemi tecnici sono stati veramente veramente importanti, e quindi a maggior ragione la nostra presenza qua oggi è veramente qualcosa di eccezionale, per la 63esima volta eccezionale. E siamo qui con Cavcav, Bricco, Samir e giusto ora il nostro caro compagno che è arrivato e ancora non ci ha detto il suo nome, ma ce lo dirà con calma, penso. Hai trovato un nome? Non ancora, lo troveremo noi. Lo troveremo noi. La stronzata, esatto. Che dici, sarai battezzato. Ma oltre a questo, oggi parleremo del 25, c'è stato questo 25 aprile, giusto? Caldo, sì, 25 aprile molto, sì. Caldo. A Firenze... Ricco di piazze, di iniziative per la ricorrenza della liberazione, ma anche per reclamare una nuova liberazione, perché liberi non siamo affatto, perché c'è poco da festeggiare di questa ricorrenza e... Niente, no, vero, la vanvera, lascerò parlare chi è stato protagonista in quella... Faremo parlare chi è stato protagonista. Parleremo anche della ZAD, come già nella puntata precedente. Avremo un piccolo inserto relativo al Festival di Letteratura Sociale che si svolgerà presso gli spazi della Polveriera a fine maggio, esattamente 17, 18, 19, 20, giusto? Esatto. Esatto, e poi io ho una piccola, insomma, l'ultima nardellata. Oh. Quindi magari volevo dargli un po' di spazio, se siete d'accordo. Ma certo, sempre spazio per il buon vecchio mortadello. Bene, dai, detto questo, andiamo con un pezzo? Andiamo con un pezzo, mi è stato detto lungo, così noi intanto ci riorganizziamo un attimo, voi godetevi questo pezzaccio. Loro sono gli Amen Ra e questa è Solitary Rain. Wombat. Yeah. Some distance in your eyes. Wow, ci siamo. Ci siamo acquattati, sistemati al calduccio della camera di Walmart. E adesso siamo sicuri come non mai. Più o meno. Allora, il compagno di cui parlavamo prima è Olmo e è venuto qua, verrà ancora, però è molto prezioso oggi perché è stato presente nelle piazze fiorentine dell'ultima settimana, che sono state più di una, sono state insomma svariate, e a noi sicuramente tra di esse piace ricordare il 25 aprile, perché che gioia che è il 25 aprile. C'è stata naturalmente la manifestazione, il corteo e tutta la serata, la giornata organizzata dalla Firenze Antifascista presso Santo Spirito, a Piazza di Santo Spirito. Il corteo ha sfilato nelle strade d'Oltrarno fino ad arrivare a Piazza Tasso per la commemorazione e ritorno per la cena e il concerto dei Malasuerte dal CPA Firenze Sud. Che gioia, tantissima bella gente, ci siamo divertiti un sacco, però bisogna anche svolgere lo sguardo a un po' prima di questo corteo, perché sempre a Firenze c'erano le celebrazioni istituzionali del 25 aprile, della festa della liberazione, dove naturalmente gli antifascisti, i famosi antifascisti si può dire, che ci amministrano, facevano le loro... Che cosa facevano? Le loro passerelle. Le loro passerelle alla fine, sì. Si riverniciavano un pochino. Sì, una bella mano di smalto. Smalto antifascista, sì. Smalto antifascista su facce di bronzo. Vabbè, perché così durano, ragazzi. Questo è il modo per andare avanti. Certo, si conserva meglio lontani. Sì, però naturalmente, come meno male, per fortuna c'è anche chi non le prende bene queste cose e decide che non ci sta. No, quello non è modo di fare antifascismo, lo vogliamo dire a gran voce. E di fatto sono andato a dirlo a gran voce. Io sono qui per leggervi quello che è uscito, una notizia. La notizia è uscita su Controradio. Controradio. Mamma mia. Me la leggo? Siete pronti? Sì, aspetta. Allora, sì, non è cortissima. Va detto che va letta tutta per comprendere un attimino. Vabbè, magari no. Dice così, proprio il giorno del 25 aprile. Firenze, ci sono stati momenti di tensione ed una carica della polizia, loro hanno scritto, per impedire a un corteo non autorizzato di andare a contestare il sindaco Dario Nardella e le altre autorità all'iniziativa ufficiale del 25 aprile. Inizia così. La Digos ha fermato 4 persone e le ha condotte in questura dopo il fronteggiamento avvenuto in Via Verdi vicino a Piazza Santa Croce. I 4 sono tuttora in questura per accertamenti, si tratta di 3 uomini e una donna. La tensione si è generata quando il dirigente della Digos ha intimato una 50 di manifestanti che volevano avvicinarsi al luogo della cerimonia in Santa Croce di non proseguire oltre, anche perché il corteo non era stato previsto, preavvisato, e il gruppo invece ha continuato venendo a contatto con polizia, carabinieri. Non ve lo leggo tutto, dai, perché è uno schifo veramente, quindi un po' si salta, insomma. L'aggiornamento: dopo gli accertamenti della Digos sono scattati gli arresti per i 4 manifestanti bloccati stamani mentre tentavano con un gruppo di una 50 di entrare in Piazza Santa Croce per protestare alla cerimonia del 25 aprile. La Digos li ha arrestati, bla bla bla, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e via discorrendo. Poi dopo sono stati insomma, non sanno c'è stato un sit-in, successivamente è stato caricato anche questo e quindi insomma. Vedete, Controradio è la cronaca, non cita neanche il perché quelle persone erano lì. Comunque, questa è l'informazione che abbiamo, non ci resta altro da fare che crearcela questa informazione, tant'è vero che noi abbiamo contattato uno di questi 4 e lo chiameremo con i nostri potentissimi mezzi che, come ben sapete, sono fallaci quando ci servono, ma poi dopo un pochino insisti, ce la facciamo, quindi ce la facciamo, ci siamo? Ok, vediamo il telefono, comunque, che sta passando dalle mani. Eccolo. Con i nostri potenti, speaker, potenti mezzi. Alziamo il volume. Non sentiamo squillare. Non sentiamo niente. Eccolo. Ecco, ora secondo me squilla. Allora, provate a connettere per bene il telefono. Vedete, vedete. Potentissimo. Nella tana del Wombat cosa succede? Ma ragazzi, diciamo nel frattempo fare? Per non farvi stare in ansia, che i quattro compagni sono stati poi rilasciati perché non c'erano prove Sì, sono stati trattenuti tutta la notte. La mattina dopo, il 26 aprile, c'è stato il processo per direttissima e sì, sono stati tutti rilasciati e, anzi, no, spero di non rovinare nessuna suspense, ma è buffo pensare che è andata a finire che anzi è stata indagata la Digos perché pare che non abbia seguito la procedura. Sì. Lascio il microfono al presente. Sì, anche perché diciamo che appunto era divertente raccontare un po' tutto il percorso che c'è stato, però sì, quello che è successo di fatto è che si sono trovati davanti a un giudice che comunque, in quanto giudice, in quanto costituzionalista, a differenza loro, comunque nel 25 aprile vedeva anche probabilmente un punto di riferimento, certo, anche suo, no? E quindi si è trovato a cambiare la situazione, a cambiare alle domande, da iniziare a porre alla Digos le domande, dire: ma scusate, ma questa era, cioè, cosa avete fatto? Ah, per non farli parlare, no? Allora già. Ah, ma perché le state? Per sequestrare. Avevano un megafono. Poi per sequestrare un megafono, sequestrate, ecco, anche le persone. Aspetta, no? Ah, siamo riusciti a... Sì, pronto. Ci senti, Franco? Ci siamo? Pronto, ci senti? Sì, io ti sento male, però okay. Ti sento. Aspetta, devi parlare... Aspetta, perché abbiamo un po' di problema con i cavi e con le distanze. Ma in realtà i cavi... Vai. Fantastico, ora dovrebbe... Bene, buonasera, Franco. Ciao a tutti. Ciao. Allora, benvenuto su Fuoco alle Polveri. Abbiamo appena raccontato sommariamente quello che è successo la mattina del 25 aprile durante il corteo indetto da IAM, CUA e CAS. Raccontaci un po' com'è andata, che cosa è successo durante il corteo e magari anche successivamente. Sì, io sono dei ragazzi che è stato arrestato, diciamo, la mattina del 25 aprile, ovviamente fiero di questo. E diciamo che il corteo non si è neanche tenuto, tra virgolette, nel senso che noi ci siamo provati a concentrarci, diciamo, ad arrivare al concentramento di quella che era la piazza istituzionale, diciamo, la celebrazione istituzionale dove si trovava il sindaco Nardella e l'autorità cittadina a festeggiare quello che doveva essere, diciamo, il 25 aprile. Noi avevamo lanciato questo appuntamento nella stessa piazza perché credevamo che fosse giusto anche prendere parola in quella piazza lì, in quella piazza istituzionale, per contestare il sindaco Nardella, diciamo, il governo della città rispetto a tantissimi temi. Oggi c'è bisogno di riprendere parola, crediamo che non fossero loro, diciamo, le persone che avevano il diritto di parlare di liberazione, perché sono proprio loro le persone di cui oggi bisogna liberarsi, sostanzialmente. Per cui noi volevamo andare là per prendere parola con i nostri striscioni, con i nostri cartelli. Eravamo un gruppo di, diciamo, 50 persone che si sta recando al concentramento che avevamo dato pubblicamente in piazza Santa Croce. Quindi anche il discorso manifestazione autorizzata è opinabile, nel senso che comunque noi si stava cercando di andare a partecipare a una manifestazione del comune di Firenze, come qualsiasi cittadino pensa può avere il diritto di andarci, di partecipare anche con la sua critica, diciamo, più o meno radicale. E è successo che mentre noi ci avvicinavamo appunto a Santa Croce attraverso Via dei Verdi, la polizia, diciamo, si è schierata immediatamente per impedirci il passaggio, ma ancora prima, diciamo, di poter discutere o comunque di capire che cosa stava accadendo, la polizia inizia nelle vesti dei funzionari, diciamo, in borghese, ad arrestare Eduardo, un compagno nostro, perché aveva il megafono e aveva iniziato a intonare uno slogan, dal momento in cui si era capito che la polizia, insomma, ci sbarrava la strada. E quindi è stato un attacco, diciamo, premeditato, io direi mirato. Politico, mirato. Mirato alle persone specifiche? Forse anche, nel senso che la polizia si conosce come militanti politici, ma non è tanto quello. Poi dopo, nel senso, quando eravamo dopo tutta la notte in questura, eccetera, al processo, e il giudice ha interrogato la polizia, e è venuto fuori chiaramente qual è il loro disegno, se tra virgolette smascherato, nel senso che loro hanno detto: abbiamo arrestato queste persone perché dovevamo impedirgli di parlare, cioè perché praticamente Luca e me nella mia persona possedevamo, cioè stavamo trasportando un megafono e uno, io nel mio caso uno zaino cassa, che è un oggetto per amplificare la voce, diciamo. E si sente proprio il funzionario, anche nei video che poi abbiamo prodotto in tribunale, gli dice: arrestate loro, prendete loro perché c'hanno lo zaino cassa, insomma. Cioè l'obiettivo della polizia, e l'hanno dichiarato davanti al giudice, è quello di silenziare una protesta. Esatto. Questo non fa che, cioè, non fa che confermarci, diciamo, il fatto che noi abbiamo ragione, cioè che le cose che poi diciamo sono obiettivamente scomode. E nessuno le deve sentire. Esatto, soprattutto dal momento in cui quella manifestazione, la mattina stessa c'era Matteo Renzi che doveva fare la sua pagliacciata arrivando in bicicletta e consultando la sua base per diciamo un plebiscito sul discorso governo 5 Stelle sì, 5 Stelle no. Per cui era ovvio che la polizia ovviamente ha dato prova di fascismo nel giorno della liberazione, questo insomma ci fa riflettere, ma sicuramente non è soltanto una questione di polizia antidemocratica che vale purtroppo 24 365 giorni l'anno, ma è proprio un discorso del governo della città, che sì, utilizza di una polizia come scorta, cioè come guardia privata, come pretoriani di Renzi e di Nardella, perché insomma è abbastanza impensabile che si getta delle persone che non hanno commesso nessun reato penale, si arrestino perché non possono, insomma, portare una critica, per quanto radicale, ma ancora tutta in termini della legalità, perché dire, l'aggressione l'abbiamo subita noi, e poi tutta la giornata, poi noi abbiamo scoperto, noi ovviamente noi la manifestazione è finita, diciamo. Però poi c'è stato un sit-in. C'è stato un sit-in, una protesta, poi dopo, che comunque ha cercato di ribadire quei concetti per cui eravamo in piazza, per cui l'antirazzismo, il precariato giovanile, insomma le uscite di Nardella allucinanti sulle segrete di Iene, sul nuovo CPT che vorrebbero costruire a Firenze, insomma nei giorni della liberazione, ci sembrava scandaloso, hanno ribadito questi concetti, ma la polizia, quando poi i compagni sono arrivati sotto la questura, ha fatto anche lì delle aree ragionette, a questo punto non più a fare il resto, ma proprio con le mani, si vedono i video che picchiano le persone, insomma. Io penso che complessivamente noi, al di là di tutto, noi siamo rafforzati da questa cosa, perché sicuramente insomma loro non hanno fatto una bella figura per niente. Ecco, e a livello anche a livello giudiziario insomma, per fortuna ogni tanto un giudice democratico lo puoi trovare, che comunque ha semplicemente sancito quanto era la realtà, perché noi abbiamo prodotto i video dove che ci scatenavano da delle condotte penali rilevanti. Per cui diciamo, dal nostro punto di vista, la giornata è politicamente riuscita, nel senso, per quanto questa appunto violenza della polizia, ma comunque ci conferma il fatto che tutta questa ansia, tutta questa tensione della polizia è perché comunque noi abbiamo ragione e diciamo le cose giuste, e hanno paura di noi, ovviamente dei nostri contenuti, e che oggi si rivela importante essere come compagni, come realtà, insomma, voglio integrare il conflitto, la trasformazione, essere laddove, diciamo così, il potere, le istituzioni non vogliono che tu sia, perché mentre sono disposti a concederti di fare il tuo 25 aprile, insomma, a festeggiare le tue cose, non sono disposti a subire una contestazione aperta a quello che è il loro mondo, il misero mondo prevalente. Ecco. Assolutamente. E quindi assolutamente, quindi voi in seguito al fermo poi siete stati rilasciati dopo un circa 24 ore? Sì, noi siamo stati praticamente arrestati in flagranza, cioè quello che loro chiamano la flagranza di reato, quello il fatto. Che poi aggrediti, la mattina, certo. Sì, aggrediti, però insomma per loro i reati sono resistenza al pubblico ufficiale, lesioni, queste erano utilizzate. E quindi la mattina del 25, diciamo, verso praticamente le 9:30, ancora prima che noi si riuscisse appunto a concentrarci per bene. Dopo ci hanno tradotto a manettavo lì per lì, tradotti in questura attraverso il mezzo blindato. Tra l'altro non ci hanno neanche detto che eravamo sotto arresto, abbiamo dovuto aspettare praticamente le 6 di sera. E tra l'altro non ci hanno fatto né parlare con avvocati, né ci hanno fatto vedere i fogli per cui eravamo arrestati. Cioè, noi siamo stati proprio sequestrati. Perché fino dopo alle sei, perché dopo alle sei di sera, diciamo, quando ci hanno detto oh, stanotte la passare qui, ci hanno tradotto sotto nella questura dove ci sono delle celle, che era una vera e propria carcerata, diciamo. Per quanto sono celle di passaggio, diciamo, di 24 ore non può starci. Credo. E fino alla mattina dopo le 8:30, quando poi sempre ammanettati con la polizia ci hanno portato al tribunale, dove sotto il tribunale ci sono altre celle, e per fare il processo in direttissima. Per cui sì, diciamo 24 ore di arresto. E, insomma, non è piacevole, però insomma noi siamo sereni alla fine. E tutto sommato, insomma, dai. Bene, e ce la siamo fatte passare. No, sicuramente si può dire anche che i media non hanno dato molta importanza a questa cosa, è comparso qualche articolo, ma noi abbiamo iniziato questo discorso a partire da un articolo di Controradio che veramente parlano della questione in modo veramente molto molto approssimativo. Chi ne parla? Controradio? Controradio, sì, in questo caso. Ah, okay. Molto molto approssimativo, abbastanza schierati, e quindi sì, certo. Insomma, come prevedete che si evolva la situazione? Bah, senti, più o meno, cioè, la questione 25 aprile in sé per sé si chiude qui, nel senso. Noi però siamo fiduciosi che appunto per questa faccenda ci dice tanto sulla città, però ci dà anche coraggio a noi, nel senso, sicuramente noi non siamo né intimiditi né impauriti. E credo che anche il prossimo 25 aprile ci sarà una nuova partita a giocare, nel senso che loro pensano di farci paura o di allontanarci dalle proteste, l'obiettivo loro non è assolutamente raggiunto, anche perché poi davanti a certi episodi, insomma, cioè, l'indignazione c'è, anche se i media ovviamente cercano di scusare o comunque di sempre far trasparire delle cose non del tutto vere, diciamo. Io penso che anche, insomma, che la questione non finisce qui, nel senso che noi andremo avanti con le nostre lotte, che poi sono lotte quotidiane. Era quella del 25 aprile, era un'iniziativa politica che voleva riallacciare anche i fili rossi, no, tra, diciamo, la memoria storica antifascista e quelli che noi sono i nuovi partigiani. I nuovi partigiani sono i cittadini della logista, gli occupanti di casa, i giovani che lottano nelle scuole, eccetera, eccetera. Questi nuovi partigiani lottano tutti i giorni. E credo che da questo momento ne usciamo rafforzati, anche perché ho visto tanta solidarietà davanti al tribunale, abbiamo visto occupanti di case, ci conoscono tanti amici, tanti compagni, gente che si affaccia alla politica da poco, per cui insomma io siamo tranquilli e sereni, sicuramente si va avanti. Dopodiché sulla vicenda andranno avanti sicuramente delle vicende giudiziarie, nel senso che il giudice ha, come si dice, ritenuto illegittimo il mio arresto, mentre ha convalidato gli altri tre, però ci ha tolto delle misure cautelari, ma diciamo il processo è andato bene, tra virgolette, perché il giudice, insomma, ci ha tolto le misure cautelari, ha riconosciuto che c'erano delle stranezze, quantomeno nei procedimenti. Dopodiché il processo comunque si terrà il 25 maggio, mi pare stava fissata la prima udienza, però, insomma, come sempre si sbatterà anche in aula, nel senso non abbiamo nessun problema a parlare davanti al giudice, l'unico in cui la ragione ce l'hai te. E dall'altra c'è stata una cosa che ci rende assolutamente felici, che credo che sia importante come cosa, il fatto che il giudice abbia, diciamo, tra virgolette, aperto, insomma, comunicato alla procura che dovrà, diciamo, tra virgolette, svolgere una specie di inchiesta sui comportamenti dell'attuale capo della Lega Fiorentina, Lucio Sisseri, che già se lo trovavamo nei guai per le faccende della Diaz di Genova 2001. Ora ovviamente sappiamo che la polizia è sempre impunita in questo stato, per cui non credo che questo procedimento avvierà chissà quale processo giuridico, nel senso, ovvio che lui è capo della Lega, già i sindacati di polizia sono indignati per questo fatto qua, però sicuramente rispetto a una polizia abituata comunque sempre a essere impunita, a essere dalla parte del giusto, a poter essere sempre arrogante, sempre dalla parte del più forte, sempre abituata, insomma, a passare sul telisce, Beh, sì, sicuramente è un segnale, potrebbe essere un segnale di... È un punto a nostro favore, nel senso, poi bisogna vedere dopo, nel futuro, come la polizia intenderà comportarsi rispetto a... alle tensioni che si svilupperanno in questa città. Io penso che questa città è cambiata, io lo devo dire sinceramente, nel senso, faccio politica da... È cambiata in più senso, probabilmente, sì. Sì, cioè, è cambiata nel senso che gli spazi di agibilità politica e di democrazia si sono chiusi, ma io non grido alla repressione, perché penso che questi spazi si stiano restringendo, anche perché c'è vita. Oggi si osa di più, come sta un osare, diciamo, questa manifestazione del 25 aprile, così come tante altre lotte, occupazioni, hanno voluto, diciamo, mettere in campo alcune pratiche e lo Stato riesce di conseguenza, ma noi siamo sempre lì con la nostra ragione, si va avanti. Bene, ci terremo aggiornati. Se invece nel frattempo ci vuoi aggiornare un po' sugli eventi, se vuoi lanciare qualche evento a cura dello IAM. Sento malino. Dicevo, se hai degli eventi da ricordarci, eventi dello IAM, dell'Iniziativa Antagonista Metropolitana? Per il momento mi pare di no, sicuramente ci saranno iniziative studentesche, mi pare, rispetto ai testi invalsi, rispetto a... Per ora, diciamo, sulla città teniamo gli occhi dritti, perché avvicinandosi l'estate purtroppo si avvicina anche momenti di sgomberi, ma diciamo dove ci riposiamo, ma ci riposiamo giusto una settimana, poi va bene. C'è sempre qualcosa, esplode sempre, non si sa, speriamo. Bene. Vai. Grazie mille. Grazie. Tutta la nostra solidarietà. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao Womba. Ciao. Ciao. Ciao. Sì, mandiamo tutta la nostra solidarietà ai compagni di IAM, del CUA e del CAMA, tutti che erano in piazza al 25, e tutti quelli che lottano quotidianamente. E, insomma, questi sono fatti, diceva bene, una dimostrazione tale di applicazione del fascismo, di metodi fascisti, proprio in una giornata come il 25, fa emergere molto bene quello che... Oddio, se ci fosse ancora bisogno di farlo, di evidenziarlo ancora di più, ma che non di tutto si possa parlare tranne che di antifascismo da parte delle istituzioni. E quindi, insomma... E quindi prendiamo nota di questa cosa, mettiamo, per l'ennesima volta prendiamo nota di questa cosa. Segniamoci la data del 25 maggio, invitiamo a partecipare, ci sarà sicuramente un presidio per portare solidarietà ai compagni che subiranno il processo. Comunque vi aggiorneremo al riguardo. Ricordiamo anche, appunto, ora non c'erano aggiornamenti di eventi in settimana, però per qualsiasi informazione la pagina Facebook di IAM è IAM, Iniziativa Antagonista Metropolitana, lì trovate sicuramente anche via via che ci saranno aggiornamenti su iniziative che riguardano questo, sull'evolversi del processo, insomma. Verissimo, sempre tutto questo sul Wombat, naturalmente. Cosa fa? Un pezzettaccio? Un pezzettaccio. Dai, sì. Pezzaccio. Dai. Che cosa passa? Allora, passiamo i The Asteroid Galaxy Tour con Major. E dai. Via. Wombat. Bentornate, bentornati su Radio Wombat. Allora, andiamo avanti con gli eventi della settimana, perché il 25 aprile era, se non mi sbaglio, un mercoledì. Però dicevamo che non è stato l'unico corteo che ha sfilato nelle strade fiorentine. Tra l'altro arrivo lo stesso in Piazza Santo Spirito, perché sabato 28 alle 17.30 è partito il corteo da Piazza San Marco. Corteo che vedeva sfilare la comunità di Mondeggi, ma non solo, il corteo era stato lanciato in difesa della fattoria Mondeggi, bene comune, ma vi hanno aderito veramente tantissime realtà da tutta Italia, perché in quei giorni, a partire dal giorno precedente, dal 27, si è svolto l'incontro nazionale di Genuino Clandestino. Proprio così, probabilmente l'avete sentito, spero per voi, perché noi Wombati l'abbiamo passato in diretta sia il venerdì che il sabato. Il venerdì c'è stata la grande assemblea plenaria di Genuino Clandestino, dove hanno deciso che strada far prendere al movimento nel prossimo futuro. Abbiamo intervistato veramente tante persone, potete trovare ogni intervista, potete trovare appunto, l'assemblea era stata strutturata a partire da un grande domandone, così l'hanno chiamato, che chiedeva fondamentalmente se le altre realtà del movimento nazionale se la sentivano di, riportare l'esempio di Mondeggi, prendere un po' Mondeggi come esempio da riportare poi ognuno nel proprio territorio. In tutto questo ci sono state, si è discusso molto di temi quali la comunicazione, la formazione sia interna che esterna, il sostegno e il mutuo aiuto, la formazione di nuove reti, ecologia, ambiente, per poi appunto addirittura tavoli pratici, quindi di formazione proprio pratica riguardo alle culture, all'allevamento e alla trasformazione. E poi appunto il sabato pomeriggio si è svolto questo corteo che è stato bellissimo. Io purtroppo non sono riuscito ad andarci, però qualcuno di noi c'è stato. Sì, qualcuno Olmo c'è stato. Olmo deve parlare al microfono più vicino. Funziona? Sì. Sì, è stato. Il corteo è partito da Piazza San Marco per fare un giro un po' atipico, per arrivare comunque, attraversare tutto il centro e arrivare a Santo Spirito. È stato un momento molto bello perché appunto in questi tre giorni erano confluite in realtà da tutta l'Italia, c'erano persone appunto, quindi in quel momento si è ritrovata un po' lì tutto, sia Genuino Clandestino che tutto quello che era la solidarietà verso Mondeggi e verso questo percorso. È stato un corteo molto pacifico in un certo senso, erano state grandi numeri, fra l'altro grandi numeri di, c'è stato prima della partenza di colpo sono comparse centinaia e centinaia di persone, e è stato molto bello anche perché comunque erano state lanciate queste idee di a livello di comunicazione, di fare delle maschere utilizzando gli animali, le piante, no? la rabbia della natura contro quello che è il mondo dell'industria, dell'agroindustria, e quindi di quello contro cui lotta quotidianamente Genuino Clandestino. Che fra l'altro questo è un punto importante che è stato affrontato nell'assemblea, perché sì, l'ecologia e la lotta all'agroindustria, ma dall'assemblea è venuto fuori anche più o meno da tutte le realtà che è indispensabile connettere le lotte, quindi le lotte della campagna nel prossimo futuro si uniranno ancora in modo più stretto a quelle del mondo, e quindi l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo, e quindi sì, sono stati affrontati veramente tantissimi temi. Sì, cioè, ha fatto molta rete, ora si vede anche nella realtà comunque quotidiana, no? Anche con il mercato che è in Piazza Tasso, che è una delle iniziative per portare in città quello che è il lavoro. Sì, la cosa molto bella è stata che moltissime persone, anche non arrivando dalla tre giorni, avevano fatto le proprie maschere, c'erano molte persone anche delle realtà intorno che appunto si sono organizzate da sole, sono arrivate comunque non come partecipanti, diciamo, più passivi a quello che è l'organizzazione, ma in una maniera abbastanza attiva. Ci sono stati alcuni punti davanti a Italy. C'è stata un'azione davanti a, ovviamente, alla regione, lungo via Cavour, durante, c'è stato per esempio anche davanti alla Benetton sulla questione dei Mapuche. E niente, insomma, è stato un corteo un po' atipico. C'erano i trattori ad aspettarci in Santa Maria Novella, che a un certo punto hanno fatto, diciamo, dare degli sguardi preoccupati al cordone della polizia, che si è trovato davanti. Non se l'aspettavano, una cosa un po' difficile da respingere, però in realtà è stato tutto molto tranquillo. C'è stato per esempio il Teatro dell'Oppresso, è stato fatto un momento lì in Santa Maria Novella, e poi si è arrivati a Santo Spirito, dove c'è stato comunque cena, cose, fino al giorno dopo, dove c'è stato il mercato alle Cascine. Anche lì comunque è continuata la giornata, è finito questa 3 giorni, appunto, sempre in città, sempre con delle iniziative per voler comunque dare vita alla città, portare questi valori all'interno della città. Assolutamente, ho avuto modo di sentire i compagni mondeggini, erano molto molto contenti, veramente è stato un incontro riuscito molto bene, ha dato molto entusiasmo, ha dato una spinta grossa, no, almeno nei primi giorni, insomma nelle prime ore, nei primi giorni, però ecco, l'entusiasmo c'è, la voglia, la dedizione, l'intelligenza. E stando lì a fare la diretta abbiamo avuto modo di incontrare davvero realtà molto, molto lontane, veramente da compagni dalla Calabria, dalla Sardegna, dal nord, da Milano, Campi Aperti, da Bologna, Terra Terra, da Roma, e ancora dalle Marche, i compagni francesi, che hanno attraversato un periodo molto difficile. E però devo dire che se si può dare un'impressione, che io, la mia impressione, ecco, è che il punto fondamentale, veramente veramente fondamentale, sulla quale loro tendono giustamente a porre molto, molto l'accento, sono le relazioni, cioè tessere delle relazioni, tessere dei rapporti con molteplici realtà, con più realtà possibile, perché ecco, è un... Per loro è veramente fondamentale non dividere il territorio, non relegare ogni piccolo pezzo alla sua storia, ma invece aprire le frontiere, aprire le porte, parlarsi, discuterne. Questo è veramente lo spirito di quel gruppo, in particolare mondeggino, ma in generale di genere clandestino, che l'impressione è che l'impressione è che lì stesse nascendo qualcosa di veramente importante. Sì, sicuramente la scala delle lotte anche porta a questo fare rete, perché le lotte sul diritto appunto alla trasformazione, a riuscire a, no, a combattere queste regolamentazioni che impongono di fatto un modo di lavorare, di produrre il cibo che deve di fatto essere industriale per rispettare queste norme, ha la necessità di una scala nazionale e sovranazionale, perché ovviamente comunque sappiamo che Mondeggi è collegato con molte lotte sull'autodeterminazione alimentare, sia in Brasile con i Sin Tierra, sia con gli zapatisti, con molte altre. Sì, assolutamente, con il nodo solidale dagli zapatisti. Abbiamo avuto anche modo di intervistare Simeon, che è il creatore, insieme al fratello, del film On the Green Road, che parla proprio delle lotte ambientaliste un po' a giro per il mondo, e il quale film sarà proiettato a Castello proprio giovedì sera. Ma potrei citare veramente tante tante tante tante cose. Che dire, è stato bello anche essere lì a fare la diretta, anche perché uno dei punti molto importanti che hanno un po' tirato fuori tutti è proprio quello della comunicazione, del creare delle forme di comunicazione che riescano a portare la voce di queste persone, di questi compagni, il più lontano possibile. Infatti, per questo siamo stati veramente onorati di aver potuto passare questo incontro in diretta. Dai, non vi dico altro, andatevi ad ascoltare i podcast che trovate voci ben più informate, ben più dentro il sistema di me. Con questo forse un pezzo, poi sì, cambiamo un po' argomento perché andiamo sulla letteratura, se non mi sbaglio, regia, vero? Sì, volendo sì. Ok, perché lo sapete tutti, ci sarà il festival. Ok, va bene, si inverte la scaletta. Si inverte, no? Cosa prevedeva la scaletta? C'era da finire di raccontare verissimo, da Zad. Verissimo, verissimo, Zad. No, no, dopo Mondeggi ci sta la Zad, ragazzi. Esatto, alla fine il collegamento ci sta. Intanto però spezziamo con un brano. Spezziamo con un pezzo. Beyond Monday, Glitch Mob. L'avete sentita? È arrivato Musichette Buffe, si parlava di territori, insomma, di autogestione dei territori e di difesa dei territori. e noi qua continuiamo a raccontare un po' la, quella che è la storia della, della SAD. Zona Defendre. Esatto. Settimana scorsa eravamo rimasti alla, alla fine, alla, al 2000, anzi più o meno al 2010. Quindi, giusto per ritirare un attimo le fila, siamo nel momento in cui, dopo 30 anni, di nuovo lo Stato francese dice che l'aeroporto si farà e ridà la spinta. In risposta a questa spinta, cosa succede? Da una parte gli abitanti si organizzano, prima esisteva solo un comitato e però di fatto era di contadini, invece anche residenti non contadini decidono di formare un comitato che è l'ACIPA e si mettono d'accordo con i primi occupanti e iniziano a fare iniziative per chiamare la gente. L'ultimo punto a cui eravamo arrivati, appunto, è nell'estate ci sono grandi, grandi eventi. Dopo questi eventi nuove persone si trasferiscono alla SAD e iniziano a essere e la SAD inizia a strutturarsi. Viene costruita una capanna dove si tengono incontri settimanali, viene costruita una taverna, viene costruito un supermercato gratuito alimentato dal riciclaggio delle pattumiere dei supermercati. Si diceva appunto che la campagna deve connettersi, è bene che si connetta con le città, e infatti allo stesso modo negli stessi mesi a Nantes, quindi nella grande città più vicina ai territori della SAD, nasce le reti militanti, iniziano a organizzarsi anche loro in modo informale e poi si raggruppano, in particolare all'interno del CNCA, che è il collettivo di Nantes contro l'aeroporto, si chiama così, per sostenere appunto il movimento antiaeroporto dalla città. Nell'inverno tra il 2010 e il 2011 gli occupanti della SAD fanno partire un tour di informazione che si muove tra collettivi, squat e spazi autogestiti a giro per la Francia, con lo scopo di riunire forze, più forze possibili. Grazie a questo tipo di iniziative continuano ad arrivare nuove persone, nuove forze fresche che si stabiliscono alla SAD per dare il proprio supporto. Il 1 gennaio 2011 l'attuazione del progetto aeroportuale viene concessa a Vinci attraverso la sua controllata Aeroport Grand Ouest, scusate la pronuncia, come ho già detto l'altra volta il mio francese è imbarazzante, però insomma, scusatemi, viene concessa a Vinci indirettamente perché appunto di fatto è questa sua controllata che si occuperà del progetto stesso, con però la presenza permanente degli occupanti, i sabotaggi e le opposizioni fisiche. I lavori preliminari di fatto si vengono rallentati. Scusatemi perché sto leggendo di fatto. Problemi di regia, scusate ancora. Insomma, con la presenza permanente degli occupanti, i sabotaggi e le opposizioni fisiche si moltiplicano al fronte dei lavori preliminari, ecco, e alle società che li portano, mentre una campagna di azione contro Vinci e i suoi subappaltatori viene lanciata anche al di fuori dell'area del progetto. Di tutta risposta, Vinci cosa fa? Vinci invia degli esperti ambientali sui terreni della SAD nella primavera del 2012 e vengono intentate azioni legali contro gli occupanti sul fronte ambientalista. Il colmo, raggiunge esatto, per capire i paradossi a cui si arriva. Dall'altra parte, mentre lo Stato si prepara a intervenire, aumentano le campagne mediatiche contro gli occupanti della SAD come dicevo l'altra volta, quello dell'acquisto dei terreni da parte del Consiglio Generale, in modo da poi avere la proprietà direttamente sui terreni e non dover neanche espropriare nessuno. per la prima volta, in risposta a questo, viene organizzato un evento in comune tra occupanti e associazioni. Il 24 marzo 2012, oltre 10.000 persone, accompagnate da 200 trattori, sfilano per Nantes. Alcune settimane dopo, i contadini della SAD, gli attivisti dell'ACIPA, che come dicevamo l'altra volta, appunto, è questa associazione di residenti dell'area non agricoltori e oppositori in generale, iniziano uno sciopero della fame che durerà 28 giorni fino alle presidenziali, strappando al nuovo governo l'impegno di non espellere gli abitanti e gli agricoltori illegali prima della fine del numero, prima della fine di tutti i ricorsi legali. Gli occupanti nel frattempo iniziano a prepararsi in vista di un possibile sgombero e organizzano, appunto, col fine di aumentare la conoscenza e la rete sul territorio, gare di orientamento, radio pirata, reti di walkie-talkie, equip mediche e luoghi di ritiro. Il 16 ottobre del 2012 la prefettura di Loire Atlantique, insomma della Loire Atlantica, passa all'offensiva con la ormai strafamosa Operazione Cesare. L'Operazione Cesare cos'è? È una mobilitazione di 1200 poliziotti al fine di sgomberare la SAD. La cosa interessante è che rispetto al periodo dell'Operazione Cesare il numero di abitanti stimato nei territori della SAD è di 150. Quindi 1200 poliziotti per sgomberare 150 occupanti. Dovrebbe essere, a dire della polizia, un'operazione lampo, ma la resistenza e il sabotaggio operati da parte degli occupanti fanno sì che lo sgombero duri 3 settimane circa. Il 17 novembre, in seguito a una chiamata fatta preventivamente dagli occupanti quando stavano ancora resistendo, 40.000 persone partecipano alla manifestazione di rioccupazione, portando alla costruzione di fatto di un nuovo borgo. Quindi lo sgombero della SAD, di fatto la SAD sgomberata, dura poco meno di una settimana. Se già molti comitati esistevano intorno alle zone della SAD, ovviamente l'Operazione Cesare aumenta la portata e quindi ne nascono addirittura oltre 200 in tutta la Francia e non solo. A metà dicembre, all'interno dei territori della SAD, si svolgono addirittura i primi incontri intercomitati, quindi i vari comitati in tutta Europa iniziano a ritrovarsi all'interno della SAD. Alla fine del 2013 i progettisti riprendono le redini e annunciano che verrà cominciato lo spostamento delle specie protette dall'area prima dell'inizio dei lavori. Anche qua tra cui evidentemente allora, loro molto protetti per le mazzate anche che presero. Non che le specie animali siano protette da una riporta, no, esatto. All'inizio del 2014, nel corso di una riunione tra i comitati locali, il movimento si impegna a bloccare la regione in caso di intervento sulla zona del progetto per evitare qualsiasi lavoro preliminare e per tornare a protestare a Nantes. Da questo, il 22 febbraio, oltre 60.000 persone e 500 trattori sommergono la città nonostante il divieto delle manifestazioni in centro. Noi si parlava di trattori al corteo di Mondeggi, immaginiamoci 60.000 persone e 500 trattori. Che immagine, insomma, che effetto possono fare? La cosa interessante è che la fermezza del movimento e della sua lotta convincono il governo a rinviare l'inizio dei cantieri, anche qua, come già era stato accennato in precedenza, fino all'esaurimento dei ricorsi legali contro il progetto dell'aeroporto. Ovviamente sono prese di tempo tattiche per il governo, perché ci sta spendendo una quantità di soldi giganteschi. Allo stesso modo, i continui sabotaggi portano al ritiro delle società che si occupavano della compensazione ecologica, quelle chiamate Da Vinci. E quindi, bene, fuggono anche loro. Nel frattempo, per tutto l'anno, la repressione prosegue con un'ondata di arresti basati su incroci tra file di intelligence e video peeling della manifestazione del 22 febbraio. Quindi si preferisce, rispetto all'intervento effettivo sulla zona, il governo decide di fare azioni mirate incrociando i dati. di fatto, fondamentalmente, telecamere che riprendono i manifestanti del 22 del grande corteo di 60.000 persone del 22 febbraio e file di intelligence, quindi anche una persona che aveva magari precedenti e che partecipa a quella manifestazione è stata sicuramente quantomeno fermata e interrogata. Il 25 ottobre del 2014 Remy Frais, viene ucciso dalla polizia durante gli scontri alla ZAD de Testé, che è una ZAD nella zona di Tolosa, che porta ovviamente a un'ondata di mobilitazioni per tutta la Francia. Cortei contro la violenza della polizia si susseguono per diverse settimane e in particolare nelle zone, per l'appunto, di Nantes e di Tolosa, portando gli zadisti sulle prime pagine di tutti i giornali fino addirittura a diventare, per far capire quanto entrano insomma, nei media e nell'immagine collettiva, a entrare la parola zadista diventa una parola del vocabolario francese. Allo stesso modo, questo grande eco mediatico fa sì che nascano una dozzina di nuove ZAD sparse per la Francia. Due giorni dopo l'inaugurazione della ZAD di Roybon, viene fermata la costruzione del centro commerciale contro cui lottano. Quindi nascono nuove ZAD e qualcuna inizia anche a vincere. Lo Stato francese in questa fase cerca di arginare la cosa più che altro con campagne mediatiche contro gli Zadid, limitando il problema a questione di black bloc e giovani violenti. Si arriva al 2015 e il 2015, come sappiamo, si apre con l'attentato a Charlie Hebdo, che dà sponda a nuove leggi antiterrorismo che di fatto permettono di imbavagliare maggiormente il dissenso e limitare i cortei in tutta la Francia. Mentre una legge libera gli imprenditori da molti dei vincoli legali che potevano rallentare i progetti di sviluppo. Con queste premesse, ad esempio, la ZAD du Testé, la stessa in cui Remy è morto, gli agricoltori dell'NFSEA, che è la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, si organizzano e cosa fanno? Circondano i terreni per permettere lo sgombero da parte della polizia. A Notre-Dame-des-Landes, una sessantina di luoghi di vita, capanne, fattorie e frazioni, si estendono ormai per i territori della ZAD e comprendono laboratori, alloggi, panetterie, radio, infermerie, garage, palestre, sale concerti, spazi per fresature e molto altro. Centinaia di ettari occupati a Vinci sono ora coltivati collettivamente e danno da mangiare agli abitanti della zona, nonché a squat di migranti, barricate e capanne in lotta, mense popolari a Nantes e a Rennes. Senza appiattire le linee di tensione, la comune continua a svilupparsi, a tessere amicizie improbabili che si sviluppano in assemblee, festival e cantieri, e prima ancora nella vita di tutti i giorni e nei rischi condivisi. Il governo ripete che non si è arreso e che presto avvieranno i progetti di espulsioni. Il movimento inizia a credere seriamente che sia possibile vincere e che l'aeroporto non verrà più fatto. Questa idea crea le basi reciproche affinché si rafforzi la volontà che la ZAD rimanga un'area fuori dall'ordinario, che comprenda tutti coloro che hanno condiviso questa lotta, immaginando il modo per far coesistere forme legali e illegali di occupazione del territorio e di mantenere tra le sue mani le terre liberate. Le componenti associative e contadine e gli occupanti concordano sulla creazione di un manifesto che parli di questo. Alla fine dell'estate del 2005 vengono riavviate le procedure per accelerare lo sgombero degli inquilini e degli agricoltori che sono sulla ZAD. A novembre un convoglio di trattori e biciclette da Notre-Dame-des-Landes arriva a Versailles alla vigilia del COP21, che è una conferenza che c'è stata sul clima delle Nazioni Unite, nonostante i divieti di circolare e lo stato di emergenza. Viene allestito un banchetto nella piazza dove si svolge la parata, da cui viene fatta una chiamata per la ZAD, come molti nuovi comuni liberi, per non farsi espellere. Il 31 dicembre 2015 i contadini e gli storici abitanti della SAD di Notre-Dame-des-Landes ricevono una convocazione al tribunale. Vinci esige espulsione immediata, multe drastiche giornaliere per i rifiuti e possibilità di sequestro di proprietà e bestiame. Dal momento che il governo non ha il coraggio di tornare sul campo, cerca di isolare alcune persone chiave che spera di spingere alla rinuncia, asfissiandole finanziariamente e con processi e multe. Di fronte a questa nuova minaccia, una dimostrazione viene organizzata in 10 giorni. Il 9 gennaio 2016, 20.000 persone, centinaia di ciclisti e 400 trattori convergono sulla tangenziale di Nantes e occupano il ponte di Cheviérat. 60 trattori rimangono intrecciati e rimangono a bloccare l'accesso al ponte alla fine dell'evento per ottenere l'abbandono dei processi. Un campo viene allestito nel mezzo della tangenziale con tendoni, paglia per dormire, un forno per la pizza e una radio mobile. Il campo però viene circondato e attaccato dalla polizia nella notte. Da questo seguono diversi giorni di blocchi col trattore e operazioni lumaca, ovvero quando intasi le tangenziali e le autostrade andando a passo d'uomo, per le strade della regione. Nel resto della Francia invece ripartono dozzine di dimostrazioni, azioni e sabotaggi. Il 25 gennaio il giudice chiede l'espulsione degli abitanti e dei contadini della SAD, ma senza porre vincoli finanziari. Pochi giorni dopo, un migliaio di persone risponde al bando di gara lanciato dal Comitato Direttivo per un futuro senza aeroporto. Più progetti si svolgono simultaneamente per rafforzare le strutture collettive della SAD, per creare una locanda, una sala riunioni, un ovile e per aprire nuove strade. Mentre il governo, sotto pressione, annuncia per voce del primo ministro che l'inizio della costruzione dell'aeroporto sarà nuovamente rinviato in autunno, qua siamo ancora al 2016, il ministro dell'ambiente addirittura arriva a dichiarare che non ci può essere espulsione con la forza dello SAD senza rischiare una guerra civile, che insomma dà una bella soddisfazione. Il nuovo presidente della regione però è scatenato quasi quotidianamente contro la SAD ultraviolenta, che addirittura arriva a paragonare a Mosul o Damasco. Per farci, insomma, il livello di paura che gli fa, più che capito. Tramite il consiglio regionale fa acquistare inserti pubblicitari sui giornali per lanciare una petizione che richieda l'evacuazione dell'area. L'11 febbraio, dopo un rimpasto di governo, il presidente Hollande cerca di uscire dal pantano annunciando un referendum sul progetto dell'aeroporto. Il governo inizia a avere veramente un po' paura. Di tutta risposta, 60.000 oppositori al progetto occupano per due settimane la tangenziale vicino alla SAD, ci organizzano un concerto e sostengono la costruzione di una torre di guardia in acciaio alta 10 metri proprio nel luogo in cui dovrebbero iniziare i lavori. Continuano i tentativi di sgombero ed espulsione della zona. Il primo ministro Val promette per ottobre un rendezvous per espellere chiunque viva, lavori, costruiva, sca o coltivi nella zona. La risposta è una chiamata di solidarietà da parte della SAD per l'8 ottobre, che porta lì decine di migliaia di persone da tutta Europa, non solo. Anche in questa occasione vengono costruite nuove costruzioni e barricate. Questa situazione prosegue di fatto con tra tentativi di sgombero e momenti di stallo fino alla notizia che abbiamo potuto comunicare anche qua su Radio Wombat del 17 gennaio 2018 di quest'anno, in cui il governo Macron annuncia, come ben sappiamo, che il progetto dell'aeroporto fortunatamente verrà annullato con data ufficiale dell'8 febbraio. Ovviamente, e questo faccia pensare, il governo però fa riferimento alla necessità di ripristinare la legalità nell'area. Di tutta risposta viene fatta una chiamata per il 10 febbraio, e quindi 2 giorni dopo dell'effettiva rinuncia al progetto aeroportuale sui terreni della SAD, per festeggiare la fine del progetto e preparare la difesa. La fine dell'aeroporto non sarà la fine della SAD. Da qui le notizie delle ultime settimane un po' le abbiamo raccontate tutti insieme, giusto? E no, non mi ascolto. Sei lasciato da solo. Sì, mi hanno totalmente abbandonato. Sì, qui. Hai ragione. Questo, è vero. Sì, si fa capire. Sì. E insomma, quindi riguardo a questo ritiro un attimo le cifre su quello che parzialmente si è detto nelle ultime settimane. Sappiamo che il 9 aprile è iniziato il tanto annunciato sgombero della SAD, che ad oggi questo sgombero ad oggi è di fatto ancora in corso. Sono stati impiegati 2.500 militari, blindati, droni, migliaia di granate, per la precisione almeno con i dati aggiornati al 23 aprile erano 11.000 granate. Tra lacrimogeni e granate esplosive. Granate stordenti. Sono stordenti se sono a qualche metro. Esatto, diciamo. Consiglio di fare un giro anche sull'internet e di cercare granate stordenti SAD per vedere gli effetti che hanno le esplosioni di queste simpatiche granate. E forse ci potrebbe anche far capire perché in molti paesi, a parte la Francia, non possono essere utilizzate per la repressione urbana. Tra l'altro, come sappiamo, appunto i CS e tutte queste sono armi proibite, no? in guerra, certo. E negli stessi giorni lo stesso presidente ordinava l'attacco missilistico sulla Siria per l'uso di armi chimiche durante la guerra siriana. Ora, la situazione sicuramente a livello di violenza non è comparabile, però c'è un livello di ipocrisia che è proprio stellare, sì. Cosmico, non so come definire. Nuova, tanto per cambiare. I primi 8 giorni di questa operazione, giusto per dare qualche cifra anche sui costi, perché poi le operazioni di polizia non sono gratuite, ma a leggere almeno la pagina Facebook Nantes Voltaire, che io consiglio a tutti se vogliono tenersi aggiornati sulle vicende che succedono giorno per giorno sulla SAD, dicono che i primi 8 giorni sono costati almeno 3.200.000 euro, senza contare le spese per il mantenimento dell'ordine a Nantes, Rennes e altrove. Quindi queste spese riguardano solo le mobilitazioni sul territorio della SAD, tutte le altre manifestazioni, cortei, sono mossi per tutta la Francia. Occupazioni di università, perché ne occupazioni sono di università, sì, che anche lì abbiamo raccontato, sgomberate ad opera di fascisti, insomma, cose particolari. Altra cifra importantissima: il 23 aprile l'assemblea dei feriti da parte della polizia pubblica, in un primo bilancio dei danni causati dalle forze dell'ordine a Nantes e Notre-Dame-des-Landes, dal 9 aprile ha stimato almeno 300 feriti in meno di 10 giorni. Bravi. Quindi una guerra. Una guerra vera e propria. Concludo semplicemente con le ultimissime notizie che ci sono da parte della SAD, al di fuori appunto del fatto che la resistenza sta continuando. Era stato comunicato una tregua, ma poi di fatto rispetto alla costruzione che stanno portando avanti gli occupanti, ogni giorno le forze dell'ordine continuano a riattaccare, a ridistruggere ciò che viene costruito e a cercare di disperdere gli occupanti. Però venerdì 20 aprile la delegazione intercomponenti ha depositato vari dossier individuali per soddisfare la richiesta dello Stato. Questi dossier riguardano quasi tutte le terre occupate e per la maggior parte delle attività svolte nell'area. Questo perché vogliono portare avanti tutti i fronti possibili. Mentre portano una resistenza attiva del territorio, loro non rifiutano a priori il dialogo con i gruppi pubblici, ma anzi vogliono mostrare tutto ciò che stanno facendo all'interno dell'area per poterselo rivendicare maggiormente. Questo per ora è tutto. Rinnovo appunto l'invito a seguire sad.nadir.org, che è il sito della SAD. Il Radio Klaxon. Radio Klaxon, che è la radio della SAD. La cosa interessante del sito della SAD è che anche una sua versione in italiano, che devo dire era stata abbandonata fino a qualche mese fa, da qualche mese invece è di nuovo molto attiva per quello che riguarda comunicati e notizie varie. E come già dicevo prima, la pagina Facebook Nantes Révolté, che ha aggiornamenti continui e giornalieri sui fatti. Viva! Beh, detto questo, pezzaccio? No, detto Olmo, questo? Precisazione. Ah, esatto, precisazioni. No, no, io appunti. Semplicemente volevo dire, ragionare sul se il microfono me lo consente, sulla l'efficacia di queste lotte sul territorio, anche insomma volendo tirare un attimo al di là delle capacità dell'organizzazione in quel luogo, e che hanno fatto un lavoro, appunto, come hai raccontato, spettacolare, anche l'inefficacia degli strumenti repressivi della polizia, cioè, e proprio a livello di battaglia, perché si è trattato di battaglia a livello proprio tattico, militare, per la difesa di questi luoghi pone di fatto in vantaggio gli occupanti, no? Abbiamo visto, assolutamente, che la cosa sì, molto interessante qui, come da altre parti, è stata l'efficacia, cioè quello che raccontavano erano agenti che sprofondavano nel fango cercando di seguire, certo, manifestanti che conoscevano il territorio. In realtà a me mi fa pensare alle battaglie Notav. Certo. In realtà sono state risolte col fatto che come dire, i contingenti che stavano a Chiomonte avevano degli addestramenti speciali per poter lavorare meglio in montagna. Purtroppo mi sa che anche qua la polizia e le forze repressive andranno in questa direzione finché appunto pian pianino impareranno a conoscere l'area. Certo, è interessante perché per ogni barricata che viene distrutta, contemporaneamente nella stessa zona ne stanno issando altre. Il campo aperto favorisce. Assolutamente. Detto questo, mando una canzoncina, siamo in mega ritardo, ma ritorniamo subito, se non sbaglio, con una piccola anticipazione del Festival di Letteratura Sociale e poi con i saluti e la rassegna degli eventi. Wombat. Wombat. Like cake in a crisis. Eccoci tornati, signori. Questa volta cambiamo davvero argomento, non come prima. È uscito il programma del Festival di Letteratura Sociale, andatevelo a leggere. Festival che si svolgerà presso gli spazi della Polveriera, spazio comune, dal 17 al 20 di maggio. Troverete veramente tanti autori di letteratura, soprattutto indipendente, che saranno a raccontare quello che sta dietro i libri, quello che sta dentro i libri. Vi saranno un sacco di tavoli, non potete mancare. Noi, in preparazione a questo evento, che poi del quale poi parleremo in modo più approfondito in seguito, nel mese di maggio probabilmente, cioè vi mandiamo domani. Cioè da domani, esatto. Quindi non oggi, vi sedete, ma domani, la prossima volta. Intanto vi mandiamo una piccola registrazione che racconta di alcuni, uno dei libri che parteciperà. Due dei libri che parteciperanno. Un tavolo, due libri. Un tavolo su due libri del festival. Ciao amici del Bombato, ciao a tutti. Vi parlo da lontano, ma vi volevo portare. Continuare questa rubrica su di spoiler sul terzo festival di letteratura sociale. Questo festival si svolgerà, come abbiamo già detto, dal 19 al 20 maggio alla Polveriera Spazio Comune in via Santa Reparata e a Firenze. Sarà un festival di 4 giorni, di cui abbiamo scelto di trattare e di portare degli estratti, delle anticipazioni qui a Radio Wombat. Radio Wombat che poi seguirà tutto il festival in diretta, mandando direttamente le presentazioni, le svariate presentazioni, i tavoli di discussione e gli spettacoli. Oggi parliamo di un tavolo che si svolgerà il sabato alle ore 17. Il tavolo è appunto sulla narrazione della working class. Presente a questo tavolo ci saranno Marta Fana e Alberto Prunetti. Con loro dialogheranno gli editori di Alegre. Quindi il tavolo tratterà della narrazione working class, cioè come la working class contemporanea si racconta, quale voce ha e dove questa voce lo porta. Per fare questo gli autori partiranno dalla presentazione dei propri libri. Quindi Marta Fana presenterà Non è lavoro, è sfruttamento, edito dalla Terza l'anno scorso, nel 2017. Marta Fana è una ricercatrice presso Sciences Po di Parigi, scrive per Internazionale Fatto Quotidiano, e questo suo lavoro è un'indagine sulle condizioni del lavoro subalterno in Italia. La Fana tratta nel libro, nel saggio, della logistica, dell'alternanza scuola-lavoro, dei lavori stagionali, del lavoro gratuito, del concetto di flessibilità e di come si è sviluppato in tutti questi anni, dei voucher, dei contratti a chiamata, dell'immigrazione forzata, dei giovani italiani. Tutti questi temi appunto sono stati trattati in questo saggio in modo approfondito e saranno anche attualizzati poi dalla stessa autrice durante il dibattito. Sui risvolti che ha avuto nell'ultimo anno anche attraverso i dati. Alberto Prunetti invece è uno scrittore di Piombino, ha pubblicato diversi romanzi, tra cui Amianto e Piccola Controstoria Popolare. A questo tavolo presenterà il suo ultimo lavoro, che si chiama 108 metri, The New Working Class Hero, che è un romanzo difficile da inquadrare in un genere, racconta la precarietà di un giovane toscano emigrato a Bristol per fare esperienza lavorativa da pizzaiolo. Si ritrova questo giovane ragazzo in un ambiente malsano, senza certezze, senza diritti, dormendo in una soffitta di un ristorante, ma con a fianco una ciurma, viene più volte chiamata così, proprio una ciurma, di working class, paragonabile appunto a una ciurma pirata. Viene il paragone con la ciurma pirata, è fatto molto spesso, è divertente, addirittura un altro dei personaggi si chiama Long John Silver, come uno dei protagonisti dell'Isola del Tesoro. questa ciurma pirata, con questa ciurma pirata il giovane immigrato toscano si ritrova a condividere tutti gli aspetti di un lavoro quasi da galera, inteso di nave, di galleone, ecco. 108 metri richiama invece insomma, nel titolo richiama i 108 metri di binari che percorrono le acciaierie di Piombino, da cui questo ragazzo proviene e di cui il padre poi era operaio, e sullo sfondo quindi di questa emigrazione forzata e porta questo ragazzo a cercare fortuna, diciamo, in Inghilterra, a Bristol, rimane la provincia toscana con le sue fabbriche e le sue acciaierie. Leggiamo una parte di questo 108 metri. Leggiamo ovviamente l'inizio perché è un romanzo, non vogliamo veramente spoilerare niente. Margherita, la pizza in onore di Margaret Thatcher. Margherita, la pizza in onore di Margaret Thatcher. Margherita, la pizza in onore di Margaret Thatcher. Continuavo a ripetere questo stupido mantra, venendo meno al dovuto rispetto verso la regina Margherita, defraudata del titolo, nella speranza che il fantasma della Lady di Ferro, dalle profondità del cerchio di Malebolge, esaudisse il sogno di un giovane emigrato italiano, trovare lavoro in Inghilterra. Ormai avevo bussato alle porte di 5 pizzerie italiane della downtown, nella zona centrale di Bristol. Ero costretto a grattare alle porte dei ristoranti italiani, perché il mio inglese era ridicolo, anzi era meccanico. Se volevo dire a qualcuno che era fortunato, dicevo «You have seen a nice world», traslazione parola per parola dell'intercalare labronico «Hai visto un bel mondo». Se qualcuno mi guardava male, lo apostrofavo con un sapienzale adagio maremmano «How wish to drink eggs», ossia «A voglia te a beova». Come a dire che devi crescere per arrivare a guardarmi negli occhi. Ma gli anglofoni, di fronte alle mie domande, mi trapassavano con lo sguardo, come se non esistessi. Forse era colpa mia, parlavo come un traduttore automatico e nessuno mi capiva. Col mio strambo autismo traduttivo, pensai di dover toccar ferro, alla lettera, al momento di chiedere un posto di lavoro. Il ferro porta fortuna e un po' di superstizione, non costa nulla. Ma dove trovare un sano bandone di ferro non rugginoso, forgiato dalle acciaierie di Piombino, temprato al caldo e al freddo, nell'olio e nel gasolio e rifilato con una mola a spazzola? L'unico pezzo di ferro che mi veniva in mente era la Thatcher. The Iron Lady, per l'appunto. La baronessa di ferro non portò buona sorte, il suo fantasma interpretò come una sfida la mia ironica evocazione. Avessi conosciuto meglio le abitudini inglesi, Touchwood, per invocare la fortuna, avrei toccato legno, mica ferro. In quel modo, con una formula blasfema, riuscì solo a liberare le forze maligne che gravavano sul proletariato britannico. Ecco, questo appunto è l'inizio del secondo capitolo del libro, in cui appunto il giovane toscano cerca lavoro. È molto divertente, un libro che scorre molto, un romanzo molto divertente, ironico, e a partire da questi due libri, Fana e Prunetti poi dialogheranno insieme al pubblico e ai coordinatori dell'incontro un dibattito su cos'è la working class, come si racconta e in che direzione sta andando. Ci sentiamo poi prossima settimana e portiamo un altro spoiler di questo bellissimo festival di letteratura sociale. Ciao ragazzi, ciao ciao. Yuri! Yuri! Dai che c'è il festival! Dal 17 al 20 maggio presso la Polveriera Spazio Comune, terza edizione del Festival di Letteratura Sociale. Presentazioni, dibattiti, concerti, spettacoli, banchini ed esposizioni. Con la partecipazione di Alberto Prunetti, Davide Grasso, Marta Fana, Ilaria Agostini, Lello Voce, Edoardo Rialti, Vanni Santoni e molti altri. Programma completo sulla polveriera.noblogs.org. Siamo tornati per le ultime cose, ma vanno dette. perché ci sono cose che non si possono lasciare indietro. Farei una sigla. Sì, ci sarebbe da fare una sigla per questo. Concordo. Rodella. Concordo. Lo chiederemo ai nostri artisti che ci fanno le sigle. Perché si sta per parlare dell'ultima nardellata, o almeno l'ultima che io ho trovato, perché poi lui ne combina tutti i giorni, quindi non, è anche difficile stargli dietro. Comunque, questo è uscito qualche giorno fa, un articolo su Repubblica Firenze, va bene, che si intitola così: Airbnb, Firenze chiama Roma, strumenti per governare il turismo. Perché al night all'incontro, insomma, a Palma di Maiorca, gli affitti turistici sono stati vietati. Quindi l'articolo dice: il NIET di Palma di Maiorca sugli affitti turistici scuote Firenze. Il sindaco Nardella: gestire flussi e mercato le locazioni vuol dire poter introdurre dei criteri. Va bene, lui riporta proprio le parole. Bene, più volte come sindaci delle città d'arte abbiamo chiesto al Parlamento e al Governo più strumenti per regolare il fenomeno del turismo, non per alzare muri o vietare alle persone di visitare le nostre città, ma perché dobbiamo governare un fenomeno che non può essere lasciato all'anarchia e a se stesso. Continua a gestire flussi turistici e mercato delle locazioni vuol dire poter introdurre dei criteri, aggiunge Nardella nel testo. Del resto noi sindaci non ci sottraiamo al problema, ci mettiamo la faccia, ma vogliamo avere strumenti perché, come già avviene in altri paesi europei, penso alla Francia, alla Germania, il turismo possa essere regolato anche a livello locale e non solo regionale e nazionale. Ha ragione Nardella, perché lui cita la Francia, la Germania e è proprio così. Intanto a Palma di Maiorca che cosa è successo? È stato anch'esso un articolo, se non mi sbaglio, della Repubblica, questo è recentissimo, e stop all'affitto di case private svolta Airbnb a Palma di Maiorca, la misura che prende di mira soprattutto le locazioni via web rende il capoluogo la prima città spagnola ad adottare un divieto simile. Questo loro dicono perché? Perché creava un sacco di problemi negli affitti. I prezzi degli affitti sono cresciuti del 40% dal 2013, decine di migliaia di turisti che provocano il deterioramento delle condizioni dei quartieri popolari e tanti altri problemi, quindi saranno esentati, quindi non è proprio ferrea, ci saranno esentati alcuni comunque edifici in posizione particolare. Non ne sono i soli, perché qui era successa la stessa cosa, non proprio la stessa cosa, però a Berlino avevano già introdotto nel maggio del 2016 misure restrittive a questo fenomeno, a Barcellona, ad Amsterdam, quindi nel senso non è una cosa nuova, però ecco, io la faccio breve perché non abbiamo molto tempo, ma quello che vi posso dire è che anche Firenze ha adottato delle misure ben precise, ma prima però, no vabbè, ve lo dico, vai. Quello che è successo a Firenze è stato un accordo che è stato siglato il 29/11/2017. Cito proprio un comunicato stampa del comune che dice così: imposta di soggiorno, accordo con Airbnb, al via il prelevo automatico del tributo da parte del portale Nardella, un importante passo avanti per far emergere il sommerso. Il comune di Firenze e Airbnb hanno raggiunto l'accordo che di fatto rende automatica la riscossione dell'imposta di soggiorno per i turisti che alloggiano a Firenze prenotando attraverso la piattaforma. Ve lo faccio breve, ci sarebbe da leggerlo tutto, perché queste cose sono da leggere, bisogna vedere quante stronzate ci vorrebbero raccontarci. Quindi, quello che lui dice: vogliamo strumenti da parte del governo per poter regolare il turismo. In verità lui l'accordo l'ha già fatto, non riguarda proprio la regolazione dei flussi, riguarda più gli introiti del comune, ecco, se la vogliamo dire tutto, perché in questo comunicato si parla esclusivamente di soldi, di nient'altro. Non viene assolutamente citato la difficoltà di soldi che naturalmente arrivano all'amministrazione. Non viene assolutamente citati tutti i problemi che provocano Airbnb e questo tipo di attività. Ve li possiamo citare noi, ma sicuramente meglio di noi ve li può citare un certo Stefano Picascia, un certo Stefano Ficascia, che è un ricercatore nell'Università di Siena, presso un ricercatore presso il LADEST, per esattezza, quindi che LADEST è una sigla che sta per Laboratory of Socio-Geographical Research, è un laboratorio universitario dove si fa ricerca appunto sulla citizen science, quindi analisi degli spazi e geografia territoriale. Lui ha pubblicato una tesi proprio sull'effetto di Airbnb in svariate città italiane, in 13 in particolare, ma anche con un focus su Firenze, dove va proprio a spiegare tutti i meccanismi e dà anche i numeri di quanto sia aggressivo. Io quando l'ho incontrato e l'ho sentito parlare andai a chiedergli, ma comunque tutti noi abbiamo utilizzato almeno una volta o ci capita di utilizzare Airbnb, come possiamo fare ad utilizzarlo in modo consapevole, in modo che non sia un peso poi per tutta per la realtà che circonda questa attività? E lui mi ha detto: guarda, mi dispiace, ma ti devo dire che no, non va usato, cioè non ci sono... Non si può usare in modo consapevole, non c'è più un modo buono per utilizzare questo strumento. Non va utilizzato perché assolutamente danneggia il territorio, distrugge tutto quello che gli sta intorno. Quindi con questo io vi rimando alla sua tesi, che è Airbnb in Italy, proprio lo trovate su internet, è in inglese, però insomma... i dati sono numeri, un po' potete intuirli. Detto questo, noi vi lasciamo con un'ultima notizia che la sentirete poi anche nella rassegna eventi successivamente, ma abbiamo parlato qui a Fuoco alle Polveri più di una volta della questione catalana, e quindi dobbiamo porvi un attimo l'attenzione su questo evento che si svolgerà quando? Questo venerdì. Tra l'altro, appunto, buon collegamento sul tema turismo a Barcellona, la lotta su queste tematiche è fortissima. E, sì, sarà un evento che è stato portato avanti con dei compagni catalani e baschi che sono passati di qua e volevano ragionare tutti insieme su questa famosa giornata del 1° di ottobre. Ci sono dei problemi. Il famoso referendum catalano. Esatto, che al di là della questione, diciamo, veramente indipendentista del fatto in sé del referendum, di ragionare sulla giornata, su quello che è stata questa mobilitazione estremamente trasversale che ha segnato un punto di rottura molto forte in tutto quello che era il percorso, perché ha visto di fatto mobilitarsi tutte le persone, tutta l'intera... C'è stata una vera mobilitazione dal basso che ha portato a tutto questo. E c'è stata anche una vera repressione da parte dello Stato spagnolo davanti a quella che era un'espressione comunque semplicemente di opinione, non era un referendum legale, per cui però non si stava di fatto dichiarando l'indipendenza, no? E niente, quindi questo ha visto la repressione, ma ha visto a fianco magari quelle persone più inaspettate, non solo persone abituate a questo genere di livello di conflitto, ma appunto, come raccontavano, magari la zia, i genitori a dormire nelle scuole, a trovarsi a opporsi alla polizia. Insomma, è stato un momento importante, e quello di cui si voleva ragionare era appunto di questo, attraverso un documentario che loro ci hanno sottotitolato in italiano, che si chiama 1O, 1° di ottobre, e che racconta questa giornata, e da lì andare a affrontare quelle che sono le tematiche attuali e anche, diciamo, all'interno di una visione di movimento, cosa può rappresentare una giornata di questo tipo, una mobilitazione di questo tipo. Benissimo, quindi ricordiamo venerdì 4 presso la Folveriera Spazio Comune, alle ore? Alle ore 7, si dovrebbe iniziare prima con un aperitivo, se non sbaglio, però attendendo il calare del sole per poter proiettare il documentario, e si segue con questo dibattito. Ci saranno appunto i ragazzi catalani e baschi, e bene, si spera appunto da tutta Benissimo. La Spagna, sono anche... sia ragazzi in Erasmus o no, che comunque perfetto, ci raccontano la loro visione. Benissimo, con questo noi siamo arrivati all'ora di chiusura. Sì. Vi diamo un saluto. Vi lasciamo alla rassegna eventi. E non staccatevi, sentiamo... rassegna eventi e coccoli al silicio alle ore 21. Alle ore 21. Allora, one butt. Prossimo. One butt. Fuoco alle polveri. Go have a Paul Berry. Radio Bomba.